La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari. L'articolo 78 della Costituzione non è mai stato attuato. Non è mai stato attuato perché riguarda la guerra. E negli ultimi 70 anni, per fortuna, in Italia non si è mai verificato uno stato di guerra interno. Infatti l'articolo 78 prevede che in caso di guerra le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari. Questo articolo ha un profondo significato storico, perché tradizionalmente quando il re andava in guerra doveva cedere i suoi poteri ad altri organi, perché ovviamente essendo al fronte non poteva governare direttamente. Ecco allora che questo istituto tradizionale della monarchia viene traslato e trasportato nel modello repubblicano, nel modello democratico. E quindi si pensa che in caso di guerra, avendo degli eventi straordinari ed imprevedibili, i poteri necessari non possono più spettare al Parlamento, ma devono essere trasferiti al governo. Questo per due ragioni: immediatezza delle decisioni, ma anche difficoltà di far riunire il Parlamento durante una guerra. Ovviamente dobbiamo tornare con la mente agli anni in cui la Costituente ha lavorato, in cui ancora era molto fresco e recente il ricordo di un paese diviso e spaccato dalla guerra, un paese in cui i trasporti erano impossibili e quindi era difficilissimo riunire il Parlamento. A questi casi pensava il Costituente, indicando la possibilità che in caso di guerra, dopo la delibera parlamentare, i poteri necessari spettino al governo. C'è un'interessante curiosità storica. L'ultima applicazione dei poteri necessari in caso di guerra non è avvenuta per la Seconda Guerra Mondiale, ma per la Prima Guerra Mondiale. Infatti, va ricordato che nel 1939 il Parlamento era già stato chiuso dal regime fascista indipendentemente dalla guerra. Infatti, era stata sostituita la Camera Legislativa con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni e i poteri già quindi spettavano di fatto tutti al governo. Fu invece nella Prima Guerra Mondiale che il Parlamento dovette deliberare lo stato di guerra e cedere i poteri necessari, quindi anche i poteri legislativi, al governo. Ciò avvenne con una legge del 1915. La curiosità è che non ci fu mai, a fine guerra, una legge espressa che revocò lo stato di guerra e quindi si ritenne che lo stato di guerra era finito soltanto perché, cessate le operazioni, riprese la vita normale del governo e del Parlamento. Oh!